fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Signore e signori, buonasera e benvenuti a tutti quelli che ci stanno ascoltando e anche quelli che ci ascolteranno, perché questa è una serata davvero speciale. Giovedì 20 luglio sono le 22:08 e ovviamente è una serata particolare perché solitamente a quest'ora e in questo giorno i nostri microfoni non sono accesi, ma lo sono perché questa sera festeggiamo i 33 anni del convento di Lunato. Lo facciamo con tante persone che ci vogliono bene, che hanno fatto parte della nostra storia, ma lo facciamo anche con degli ospiti speciali live qui da noi per una serata davvero unica. Ne abbiamo due qui con noi e vogliamo anche fare una chiacchierata su quello che li lega al nostro posto e a quello che lega in generale alla musica. Quindi vi presentiamo due dei componenti degli Esquina Caliente, giusto? Giusto, sì, sì. Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti. A tutti, vicino al microfono, così benvenuti veramente. Ciao, allora, intanto dai, presentatevi così cominciamo dalle domande di rito. Sì, sono Osmani Diaz, de Cuba, il direttore del gruppo Esquina Caliente. Ah, il direttore, cosa fa il direttore? Il direttore fa tutta la musica. Cioè, scrivi? Certo proprio. Che sì. Ok? Sì, sì, scrivo la musica. Quindi i pezzi sono tutti vostri? No, siamo un gruppo adesso dove la maggioria delle canzoni è cover. Ah, ok, cover. Che sono immagini classici della musica latina. Della musica latina, ok, sì. Ma avete un genere in particolare o nel latino spaziato? No, è latino spaziato. Ok, sì, okay, sì, quindi un po' tutti i tipi di ballo, tutti i tipi, certo, di influenze. Sì. Sì. Ma anche come territorio, cioè solo Cuba o... No. Tutta la Latino America. Da dove andate a prendere le canzoni? Cioè che paesi raccontate? Brasil, Colombia? Venezuela. Wow. Sì, Panama. Beh, quindi studiate Repubblica anche... Dominicana. Oh, fantastico. Cercate anche molto, quindi. Sì, sì, sì. Troviamo i pezzi più importanti di cada regione. Ah, di ogni regione. Sì, sì, sì. Quindi una sorta di, come dire, best of, yeah, della musica latina. Della musica latina. Di tutto generale. Il territorio latino. Bello. Incluendo la Spagna. Puerto Rico. Ah, anche Puerto Rico. Sì, anche Puerto Rico. Fantastico, fantastico. Sì, sì. Oltre al direttore abbiamo... Laura? Laura che è la direttora, no? No, è la mujer del direttore. Ah, la mujer che è importantissima. No, mentira, anche no, questa. Sono la cantante del gruppo. Wow, la cantante, sì. Ok. Beh, studiato immagino canto. La figura quindi, femminile, sì. Sì, sì. Ok, ma hai studiato per questo genere o hai studiato canto in generale? No, ho studiato per questo genere. Ah, c'è proprio un tipo di studio particolare per cantare il latinoamericano. Sì, perché la musica latina è un po' complicata, diciamo, in generale, no? Uno perché il tempo della musica è differente dal tempo di ogni altro tipo di musica. Ok. Ci sono molti contrattempi, molte sincope, sincope e contrattempo. Sincopa? Sincopa, come tu l'hai detto? Sì, sì, sì, giusto, il contrattempo, certo, ah, ci sì, sta. Sì. E quindi hai sempre cantato questo genere o canti anche ho pop? Ho sempre cantato, no, ho sempre cantato solo questo genere. Solo questo, wow, sì, sì. E il gruppo è attivo da quanti anni? Dal 2006. 2006, quindi aspetta, 16, 20 anni, dai. Quasi, sì. Quasi 20 anni. Mancano 4 anni per sì. Mancano 4 anni, per cui quasi 16 anni. E siete sempre stati così numerosi o vi siete aggiunti piano piano? No, siamo sempre così, a volte siamo meno. In 6, no, stasera? Se in 6 siamo stasera. Ok, sì. Che c'è quindi? Allora, cantante, tu che fai? Il basso. Ah, il basso, poi? Un altro cantante, il piano e due percussioni. Tortolò la paila e il figlio di Tortolò in la conga. Wow, quindi ok, due percussionisti. E però è anche tradizione che la vostra musica e questo tipo di gruppi siano sempre così numerosi. Come sì, mai secondo sì. voi? Secondo il tipo di musica, la complessità della musica sta in la numerosità della gente. Ah, perché è musica complessa quindi, sì, che sì, richiede sì, più sì. strumenti sì, per sì, rendere sì. al meglio. Sì. Quindi anche questa è una tradizione un po' della vostra sì, cultura, sì. cioè i gruppi numerosi. Soprattutto i fiati. Sì, sì, lo vedi, sempre il gruppo latino sono tanto. Ok. 12, 14, okay. 16, sempre così. E domanda scomoda, però magari se non volete, sì, sì. È il vostro lavoro questo? No. Ok. È es la passione. La passione, ok. Quindi tutti fate un altro lavoro e poi le vostre serate nel tempo libero. Certo, ma questo vi permette anche di viaggiare o le serate sono solo qui in Italia? No, hace due settimane stavamo in Francia. Ah, quindi uscite anche, andate all'estero? Sì. Dov'è il posto più lontano, più strano che siete andati? Magari siete anche tornati a casa vostra? La Siberia! Cioè, musica latina in Siberia. Esatto. E ti ricordi che periodo era? Sì, era il 2010. No, il mese proprio, per capire la stagione. No, tu... Era in estate. Era comunque estiva. E poi l'inverno. E anche l'inverno. Anche l'inverno avete sì, fatto. Sì, e come mai la Siberia, una musica di questo genere? Stavamo in un festival No, realmente in Roma. Stavamo in un festival in Roma. Sì? E sono... è venuto il capo... della Siberia del progetto. Non ha visto e ha detto voglio che te vada. Ah, vi ha portato, certo, sì. Quindi è stato Roma. Dovevano aprire due locali di musica latina in Almaty, che è una città del Kazakistan. Sì. E quindi ci ha fatto questo lavoro. Siamo rimasti lì un anno e mezzo. E in quell'anno e mezzo, oltre le serate che facevamo nel locale, c'erano anche le trasferte incluse dentro, e quindi chiedevano il gruppo in vari posti del paese, e in quell'occasione è stato anche in Siberia. Pensa a te. Eravamo non avrei davanti... detto che ci fosse comunque non tanto tradizione, però anche come dire, cultura per quel tipo di musica. Ballano? E anche bene. Ballano bene? Benissimo, sì. Ma perdonami, anche qui scusate la domanda. Sempre gente comunque latina? No. Cioè siberiani, quindi. Proprio la gente del posto. Del posto, ok. Quindi non c'è una comunità, diciamo, magari latina nel loro territorio. C'è molto poca, piccolina. però la maggioria sono come qua, che noi sono certo. Qua sempre paesi italiani, no? Sì, certo. Quindi c'è la tradizione latina, pensate, in Siberia, guardate che col freddo che... Come freddo, meno 42 gradi, noi stavamo bailando. Bene, bellissimo, fantastico. A parte che loro con il freddo sono organizzati diversamente da noi, no? Loro il freddo lo vivono in un'altra maniera. Sì, c'hanno magari il DNA un po', no? No, non solo, sono organizzati. Ah, ok. E che loro hanno il caldo. Sì. L'hanno talmente a portata di mano in tutto, okay. E anche nell'autobus, no? Come Dubai magari al contrario, sì. Per il caldo. Hanno anche nell'autobus, tu entri nell'autobus e lì c'è tutto acceso, no? Certo. Quindi stai dentro casa a maniche corte, vivi tutto a maniche corte. Sì, è bello. No, è particolare, però insomma associare la musica del vostro genere a quel tipo di territorio effettivamente è un bel contrasto. Poi eravamo in un festival dove c'erano 40.000 persone nella Siberia e noi non lo sapevamo. Siamo ritrovati in questo festival. Abbiamo suonato in un'unica data 40.000 persone. Perché era un festival. Era un festival, abbiamo suonato in una patana. In un una barca, scenario. Ah, in una barca, ok. Una piattaforma, una sorta di piattaforma. In un fiume. Non lo sappiamo. Sul fiume? Sì. E a corrente come arrivava? Ah, nos hanno portato in una barca. Ci hanno portato. Ah, una sorta di generatore c'era magari. No, era grandissimo, era tipo il festival di Sanremo. Ah, ok. Fatto su una piattaforma in un lago, era un... Sì, però dico, la corrente era sulla piattaforma. Sì. Col generatore, probabilmente. Tutto. Ok. Ma fantastico, hanno ballato su questa piattaforma. No, la gente era dall'altra parte. Ah, okay. La riva, certo. Fantastico. E siccome adesso anche da noi, da parecchi anni, per fortuna, è arrivata, ve ne sarete accorti, questa tradizione insomma anche della musica latina, quindi anche questo genere che è diventato molto inflazionato anche grazie alla radio. Secondo voi cosa fa la differenza all'interno di un gruppo come il vostro? Cioè, come sapete riconoscere chi suona veramente bene questo genere? Cioè, cos'è che caratterizza la bravura di un gruppo secondo voi? Voi che siete anche nativi del territorio. A me la preparazione. Ma come la capisci la preparazione del gruppo? No, non si sente quando qualcuno... Cioè, qual è quell'elemento, secondo voi, che vi fa dire che non c'entra nulla con da dove provengono, cosa fanno? Questi suonano bene? Sì, come si chiama? La complessità, l'amalgama. Da tanti fattori. L'armonia. Hai tanto fattore. Sì. Però è come se stuviéramo casati tutti sposati fra noi musicisti. Sì. Prima fra noi tiene che avere una comprensione, una sintonia, esa è, che tu stai in sintonia e poi la capacidad de cada instrumentista en demostrar realmente lo che sa fare. Ok, quindi è proprio l'alchimia, insomma, che si crea nel gruppo. E questo da fuori si sente? Sì, si sente. C'è una cosa che il pubblico percepisce, riesce a percepire. Percepisce l'intesa che c'è fra i musicisti. Ok, l'energia che si capisce questo, secondo voi, è una cosa che si riesce a trasmettere. Sì, sì. Se non trasmette quello non è buono. Non funziona? No. Ok. E avete anche altri progetti per il futuro? Nel senso, continuate su questa strada, volete fare un disco, volete fare... No, abbiamo fatto... Una tappa in particolare, cioè, no, che progetti avete per il vostro? No, abbiamo fatto un disco, realmente. Abbiamo fatto un disco dell'Esquina Caliente, lo abbiamo fatto qui in Brescia. Ah, ok. In un studio di grabazione. Sì. E non ha dato risultato, quello sì. Ma qua è impossibile vivere. Un'altra caratteristica di Esquina Caliente è che quando per esempio esce un brano famoso che diciamo che suona tanto, c'è una hit forte, che diventa una hit famosa, tipo sì, suona la radio, Despacito, sì, però no, ci sono per esempio delle categorie diverse, non dalla salsa, che quelle stesse canzoni le riportiamo noi in salsa. Per esempio, una canzone italiana famosa che suona nel momento, noi facciamo la versione di salsa e la portiamo. La eschinalizzate. Esatto. La rendete latinizzate. È interessante questo. Esatto, quindi riportandola in salsa tutta la gente che, certo, che riconosce il tema. Che non è facile, che c'è nel senso che non vale però per tutte le canzoni, immagino. Cioè, no, non tutte le canzoni si possono poi trasportare nel vostro genere. Beh, no, perché devono ci sono dei generi che, certo, si adatta magari più per una baciata o per una salsa o per un merengue. Certo. O per un... bisogna vedere che il tipo della canzone per cui sono è lui che è il direttore. Che realmente... bene ragazzi, benissimo, piacere avervi conosciuto, anche perché tra pochissimo poi vi dobbiamo anche inizia ascoltare, quindi dovrete riscaldarvi anche, certo che volete sì. Fare un saluto anche agli altri, a quelli che vi stanno ascoltando. Un saluto a tutti la gente di questo mondo e a tutti la gente del complesso del convento, che sono ottimo, bel posto e un'energia positiva. Si sente. Grazie Esquina Caliente, vi andiamo ad ascoltare volentierissimo tra sicuro poco, sì. E vi aspettiamo poi alla prossima occasione. Okay. Grazie ancora, ciao ragazzi. Ciao.